Ehi, Rider Beach, è arrivato un nuovo ordine per te. Ritiro il pacchetto, consegna in ritardo o forse non lo consegno. Pedalare col tacco non è certo da tutti, ma non è un problema per le mie Louboutin. Becco Diego al parco, ci fumiamo una siga e poi passa da me. Ordine 7385, ora macchi con cane e un paio di birre. Ritiro il pacchetto, mi sembra non cotto, non volevo rischiare e gli ho dato uno sgagno. Non ho capito dove vive questo. Forse è meglio se questo giro balzo. Vado al corso di yoga, va. Che si è fatta una certa e io sono in ritardo. Che si è fatta una certa e io sono in ritardo. Che si è fatta una certa e io sono Rider. Alla cassa, mi fissa le tette. Il passo un po' siccano di un'automelette. Un Sauvignon, Aragosta e Raclette. Sono mille minuti che aspetto qua dentro. Non mi chiamo Dante, ma questo è l'inferno. Me ne vado col vino, lo. Che mio c'ho d'ora per un buon Sauvignon. Che mio c'ho d'ora per un buon Sauvignon. Che mio c'ho d'ora la sua Rider. Benvenute su una radio, siamo qui con alcuni compagni che sono stati, che sono dentro al processo Deliveroo per i fatti successi il 13 di aprile 2018, quindi direi di iniziare subito con una ricostruzione di quello che è successo in quella giornata. Grazie alle compagne e compagni di Mala Radio. Sì, iniziamo subito con una ricostruzione. Nell'aprile del 2018 ci fu questa azione presso la sede di Deliveroo Milano. Sostanzialmente un gruppo di lavoratori, rider e solidali decisero di entrare nella sede di Deliveroo durante l'orario dedicato allo sportello rider, quindi in teoria un momento in cui l'azienda avrebbe dovuto interfacciarsi con i lavoratori. E dal momento che erano già esistite delle mobilitazioni tra Milano e Torino, ma l'azienda non aveva mai risposto a quelle che erano le richieste dei lavoratori riguardo sia all'introduzione del cottimo che all'assicurazione sanitaria che alla gestione algoritmica dei turni di lavoro, visto che l'azienda non rispondeva in nessun modo, si è deciso di sfruttare questo momento dello sportello rider per cercare di interfacciarsi direttamente con i manager. Era presente in sede quel giorno il general manager Matteo Sarzana, che non ha in nessun modo voluto ascoltare i lavoratori e le lavoratrici che hanno effettivamente letto una lettera con le loro rivendicazioni che non ha ricevuto assolutamente nessun tipo di ascolto. Sarzana ha immediatamente fatto intervenire le guardie private del posto, che in modo molto poco simpatico hanno subito cercato di mettersi tra lui e i lavoratori e poi di allontanare i lavoratori. È stata poi chiamata la polizia, che è arrivata con la Digos e che ha a sua volta chiamato la cedere fuori dai locali. E, andando avanti con il tempo, il Sarzana continuava a mostrarsi completamente non disponibile ad ascoltare, per cui a un certo punto è intervenuta la polizia con la cedere in assetto antisommossa, che ha diciamo partecipato a sgomberare i locali anche con la forza. Sono partite anche alcune manganellate. E nel mentre fuori si erano radunati alcuni solidali, e sostanzialmente i fatti sono questi, non è successo molto di più. E oggi, a ormai quasi 4 anni di distanza, partirà un processo per quei fatti, in cui 18 delle persone presenti sono state denunciate tutte per violazione di domicilio e alcune anche per violazione di domicilio con cioè prevede una pena ipotetica che va da 1 a 4 anni. Alcune sono state denunciate anche per rifiuto di fornire le proprie generalità e alcune sono state anche denunciate per resistenza e oltraggio pubblico ufficiale. Oggi, 12 gennaio, partirà il processo, che vede appunto 18 imputati. E sarà solamente un'udienza tecnica formale, per cui al momento non abbiamo ancora pensato a delle mobilitazioni per questa data. E al momento quello che volevamo fare era rendere pubblico l'inizio di questo processo per riportare un po' l'attenzione sulla questione Rider, e sulla questione dello sfruttamento dei lavoratori e anche della repressione su chi ha cercato in qualche modo di lottare riguardo a queste questioni. E probabilmente ci saranno delle mobilitazioni in seguito, ma ci aggiorneremo più avanti quando si entrerà più nel vivo del dibattimento nel processo. Ci sono rider nella tempesta, lo sbirro al manganello vuole già fargli la festa, ma dopo barra i coppoli s'attesta, la sindaca Pendino per loro ha perso la testa. Arriva il 1° maggio e son vestiti a festa, padroni contro rider dicono che è un testa a testa. Ne sentirai cantare le gesta titaniche, con taniche alla mano se canta l'ira funesta. Ti chiedi dove imparano tecniche nuove, nelle lotte attorno e tutto attorno sentirai le loro cover. Cuffa, rabbia che poi esplode, mi domando se sarà abbastanza quando in strada muore un Glover. E speriamo che sia tanta, che sia tanta, che sia tanta, che sia 80 all'ora. Su una scatto fisso che l'asfalto lo divora, con lo sguardo fisso verso Aurora. E non è un'alba nuova, no, e non ho un'arma buona per combattere sti boia boia la malora. E mi domando ancora, puoi morire per portare da mangiare, per non fare più la fame, o per non fare più Riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm. Yeah, yeah, yeah. Riders on the storm, riders on the storm, lotta contro Babylon, distrugge il patron, veste decathlon, su maglie burlone, sbirri nell'iPhone, pare una fiction, compie la missione, torna alla maison. Passano gli anni però non passa la fame, nonostante zero incassi siamo bravi a incassare, in 300 come Sparta siamo scesi a lottare, però non c'era l'ascensore, ci siamo fatti le scale. Non cambierò il lavoro, sarà il lavoro a cambiare, se il padrone non impara lo dovremmo addestrare. Sto un bilico tra caduta e uno scontro frontale, mi sembrava mamacita ma ancora ora quell'ospedale. Riders on the storm, all la gang shit, trovi tutti i nostri nomi nella blacklist, ci vogliono fare fuori tipo Brexit, ma la strada è un uragano tipo Katrin. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're Quindi adesso vorrei chiedere come si inserisce i fatti di aprile del 2018 all'interno della lotta Rider in Italia e specificatamente a Milano. Allora, la lotta di Rider è almeno 2 anni che era iniziata con iniziative, assemblee, insomma, nelle varie città, soprattutto a Torino. a Milano, anche a Milano ci si stava organizzando, e diciamo quello che è successo nell'aprile del 2018 è stato, diciamo, il fatto più eclatante. E poi da lì è stato, insomma, un crescendo della lotta negli anni successivi, che ha portato, diciamo, soprattutto quello che è successo nel novembre del 2020 e poi nel marzo del 2021 con gli scioperi. Soprattutto a novembre 2020 ci sono stati 6 giorni di fila di sciopero con cortei selvaggi di bici e blocchi davanti ai McDonald's. Alcuni sono stati addirittura costretti a chiudere e espropri degli ordini. E poi abbiamo visto anche magari in città più piccole come Monza e Treviglio, ci sono state anche lì giornate di lotte, di scioperi e di, insomma, cortei di rider. E insomma c'è stato un crescendo anche del, diciamo, della conflittualità in strada e dei rider. Nelle ultime settimane ci sono stati anche degli scioperi contro il nuovo contratto di Just Eat, organizzati dal SICOBA, scioperi che sono stati a Torino, a Roma e a Genova. E quindi è una lotta che non si sta fermando, nonostante comunque, appunto, questo processo che partirà a breve, insomma, e altre varie azioni repressive che sono state fatte anche nei confronti dei rider e dei solidali. La lotta continua. As we go marching, marching in the beauty of the day, a million darkened kitchens, a thousand mill lofts gray, are touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people hear us singing, bread and roses, bread and roses. As we go marching, marching, we battle too for men, for they are women's children, and we mother them again. Our life shall not be sweated from birth until life closes. Hearts starve as well as bodies. Give us bread, but give us roses. As we go marching, marching, unnumbered women dead go crying through our singing their ancient call for bread. Small art and love and beauty, their drudging spirits new. Yes, it is bread we fight for, but we fight for roses too. As we go marching, marching, we bring the greater days. The rising of the women means the rising of the race. No more the drudge and idler tend that toil where one reposes, but a sharing of life's glories, bread and roses, bread and La visita negli uffici di Deliveroo a Milano del 13 aprile 2018 nasce dall'esigenza di non avere dei rapporti con l'azienda che fossero meramente multimediali, quindi fatti di mail oppure di comunicazioni tramite le chat di supporto. E nasce anche dall'esigenza di confrontarsi direttamente con i manager dell'azienda dopo la chiusura dello sportello rider degli uffici qui a Torino. Il 20 marzo 2018 infatti a Torino c'era stato uno sciopero che aveva bloccato il servizio di Deliveroo, e il giorno successivo, il 21 marzo, in gruppo, appunto il gruppo dell'assemblea di rider di Deliveroo, eravamo andati negli uffici di Torino, appunto, a portare le nostre rivendicazioni. La risposta che avevamo ottenuto in quell'occasione era stata, appunto, una porta in faccia e la fuga da parte dei coordinatori di Torino. Quindi ci siamo organizzati per andare negli uffici di Milano il 13 di aprile e lì andare a consegnare le nostre richieste e aprire questo confronto con l'azienda. Dopo quell'esperienza, alcuni rider che frequentavano l'assemblea sono stati anche assunti in altre piattaforme, tra cui soprattutto Glovo. E anche lì appunto sono state lanciate delle iniziative di protesta per migliorare le condizioni di lavoro, quindi sit-in, scioperi e appunto l'assemblea è continuata a confrontarsi periodicamente negli anni, è stato portato avanti anche un laboratorio di ciclofficina autogestito con cui appunto si provava a condividere delle esperienze meccaniche, a ripararci le bici, appunto a posto delle varie aziende che non si sono mai fatte carico appunto della manutenzione dei mezzi. C'è da dire che nel periodo della visita che oggi viene portata alla sbarra nel Tribunale di Milano c'era anche stata la prima sentenza del processo Foodora, quindi c'era una, come dire, disillusione rispetto alla possibilità di poter ottenere dei miglioramenti attraverso i tribunali che appunto avevano sentenziato la sconfitta dei sei rider licenziati da Foodora, tra i quali appunto alcuni avevano iniziato a lavorare per Deliveroo, e appunto c'era la disillusione rispetto alla possibilità di avere dei confronti che potessero dare dei risultati. Quindi quella volta, andando in gruppo e anche con il supporto di persone solidali negli uffici di Deliveroo, quello che si voleva esprimere era anche appunto la forza e la voglia di far ascoltare la propria voce. Le assemblee comunque negli anni sono continuate, ci sono state diverse iniziative che appunto sono arrivate agli scioperi del novembre 2020, che diciamo sono scoppiati a macchia d'olio un po' su tutta la penisola, soprattutto per il cambio di contratto e appunto per l'accordo che è stato siglato dall'associazione di categoria del Food Delivery, Asso Delivery e il sindacato di comodo UGL, contratto con il quale le condizioni dei rider, anche se all'opinione pubblica appunto sembravano essere migliorate, in pratica sono peggiorate perché appunto il cottimo è stato completamente legittimato da questo accordo e appunto è passata all'opinione pubblica l'idea per cui le condizioni dei rider fossero state migliorate, ogni problema è stato risolto. Ti ricordi di Milano? In ufficio a Sarzana tremava pure la mano. Ora c'è Frilo Kill, magari lo rifacciamo. La pratica di visitare gli uffici, che un po' prova a scardinare le dinamiche di rappresentanza e che soprattutto scardina anche la modalità scelta dalle aziende per confrontarsi con lavoratori e lavoratrici, fatta semplicemente di mail, ticket e chat di supporto. È una pratica che anche nell'ultimo periodo, e comunque anche nei vari anni, è stata portata avanti dall'Assemblea Rider di Torino e ha dato anche dei risultati. Appunto quelli che secondo me vale la pena ricordare sono quelli più recenti, appunto del mese di dicembre del 2021, dicembre scorso, in cui in gruppo ancora sempre l'assemblea rider è andata negli uffici sia di Just Eat che negli uffici di Glovo ed è stato un modo per mettere in difficoltà i coordinatori che appunto hanno dovuto farsi carico immediatamente delle problematiche che venivano prospettate dai rider, tra le quali appunto le assenze ingiustificate o i provvedimenti disciplinari messi arbitrariamente, oppure i blocchi degli account. Questa modalità ha portato alla possibilità di risolvere immediatamente dei problemi, di farlo in modo collettivo e soprattutto di creare entusiasmo e consapevolezza tra i lavoratori e le lavoratrici che hanno partecipato a queste azioni. Quindi Quindi a dicembre, tanto negli uffici di Justit quanto negli uffici di Glovo, c'è stato modo di sperimentare di nuovo l'efficacia di questa modalità di confronto e penso proprio che nel futuro ci saranno altri momenti in cui i lavoratori e lavoratrici si troveranno a gridare e a portare la loro voce dentro e fuori dagli uffici per ottenere immediatamente delle condizioni di lavoro migliori. やっぱ俺のバイクがナンバーワン稼いだ金はバイクに使う、yeah. この仕事遊びじゃない、うん、戦うあなたは一人じゃないそうメルカリやフォークマーケットプレイス毎日チェックまるでドラッグチネルコロナ後 BMC 全く手が出んから逃走中ベリーミヤビチベザコメウナシガジラコメガミカゼボラコメ裏側のチョエイルドオポケボガコメミラシロバロコメウナガラガドコジライダボタ We green dance part of the place Kickless cash, kickless cash In un film, tornare ai miei 14, magari anche il drive-in, per una sera il king. Invece sono in tilt, sono più dai del gin, mi dedico al leaching, poi vado all'Eurospin. Lavoro con il pin, economy più green, estrai come il bowling, lo scrivo anche Fuming. McGregor o McQueen, in fuga coi blue jeans, poi salgo sopra il ring, impossible to win. Ashish contro CS, Torino Gucci Gang, no crack ma solo crash, spacca come la skank, si invade piazza e scena come fosse un uragano, 2017 ti ricordi di Milano, in ufficio a Sarzana tremava pure la mano, ora c'è free login, magari lo rifacciamo. You can't stop me, oh, you can't stop me, point.